Sono le 13. GR24, il sole 24 ore. Tagli per famiglie, studenti e asili, nella manovra calano le agevolazioni. Prezzi volano alimentari e carburanti. P4, nuovo rinvio sull'arresto di Papa. Operazione internazionale contro l'Andrangheta, Radio 24 parla il procuratore di Reggio Pignatone. Una buona giornata da Alessandra Tedesco e dalla redazione. In primo piano la manovra del governo, ce ne parla in diretta dal Senato Vincenzo Miglietta. Sì, buongiorno. Tappe forzate dunque per il decreto di stabilizzazione dei conti pubblici. Come annunciato negli scorsi giorni, il governo ha posto la questione di fiducia sulla manovra, unico modo questo per garantire il drastico taglio dei tempi parlamentari e portare così ad approvazione il testo già oggi qui a Palazzo Madama. Sta parlando in questo momento il ministro dell'economia Tremonti. Il ministro ha ricordato come la questione finanziaria è problema non solo italiano ma europeo, più che di speculazione finanziaria, ha spiegato il ministro, si tratta di sfiducia politica sulla moneta unica e sulle prospettive dell'Unione Federale. Il provvedimento dal pomeriggio, lo ricordiamo, sarà già in commissione bilancio della Camera per il via libero definitivo atteso per domani sera. Sul fronte dei contenuti, la manovra è cresciuta da quasi 50 ad oltre 70 miliardi di euro. Tra le novità di questa mattina, il taglio indistinto a tutte le agevolazioni, 483 le voci esistenti. L'intervento sarà lineare e sarà del 5% nel 2013 e del 20% a partire dal 2014. Riguarderà tra l'altro i figli a carico, le spese per la sanità, i redditi da lavoro. Del delicato momento economico-politico è tornato a parlare intanto il Presidente della Repubblica. Nel prossimo futuro occorreranno altre prove di coesione, ha detto Napolitano. L'accordo raggiunto tra maggioranza ed opposizione, ha ricordato il capo dello Stato, è segno di una comune percezione da parte di tutti dei rischi a cui è esposta l'Italia e di una comune assunzione di responsabilità. E dal Senato è tutto, linea allo studio. Grazie Vincenzo Miglietta, noi restiamo al Senato però per parlare dell'opposizione, su come si sta presentando per quanto riguarda la votazione di oggi. Elisabetta Fiorito. Sì, buongiorno, bene la prova della coesione, ma il governo dopo la manovra deve andare a casa, lo ribadisce proprio alla vigilia del voto Anna Finocchiaro, capogruppo PD qui al Senato. Questa manovra non ci piace, il nostro è un gesto di responsabilità per l'Italia che tra l'altro dimostra che ci proponiamo come alternativa affidabile. Da lunedì il governo se ne dovrebbe andare via perché fa male al Paese. Il presidente del PD Massimo D'Alema rilancia l'ipotesi di un governo tecnico per fare le riforme. Dal canto suo il presidente del Senato Renato Schifani rassicura l'opposizione e vorrei rassicurare sulla mia vigilanza sia sulla manovra che in futuro, ha detto. Da segnalare poi che durante le pause dei lavori sempre Schifani ha annunciato la costituzione del terzo polo formato dall'API e da Futuro e Libertà e composto da 12 senatori. Del nuovo gruppo non fa parte l'UDC che resta nel gruppo delle autonomie. A Montecitorio invece il leader dell'Italia dei Valori Antonio Di Pietro chiede che venga messa ai voti la mozione di sfiducia del ministro dell'agricoltura Saverio Romano in merito alla richiesta di rinvio a giudizio per concorso in associazione mafiosa. L'ultimo ministro arrivato è già inquisito, dice Di Pietro, per questo il governo deve andare a casa e finché non verrà messa ai voti la mozione l'IDV abbandonerà l'aula. E per il momento qui da Roma è tutto, poi studio. Grazie Elisabetta Fiorito, ci sono delle critiche alla manovra che arrivano dal presidente della Conferenza delle Regioni Vasco Errani, che parla di un vergognoso scaricabarile istituzionale che non è certo praticabile. Errani dice anche che lo squilibrio dei tagli proposti dalla manovra, che gravano in modo insopportabile su regioni ed enti locali, rappresenta un'ingiustizia e necessita di un serio riequilibrio. L'inflazione annua è salita a giugno al 2,7% dal 2,6% di maggio, lo rileva l'Istat. Aumentano soprattutto trasporti, alimentari, servizi ricreativi e culturali. Cresce l'inflazione che a giugno registra un'ulteriore impennata al 2,7%. Lo rileva l'Istat, confermando le stime provvisorie che indicano un aumento dei prezzi al consumo su base mensile dello 0,1%. Il tasso tendenziale è il più alto dal novembre del 2008. Guardando ai diversi settori, l'Istat rileva i maggiori incrementi per ricreazione, spettacoli e cultura e servizi ricettivi e di ristorazione, più 0,3%. In calo risultano i prezzi delle comunicazioni a meno 0,6%. Sul piano tendenziale, i maggiori tassi di crescita interessano i trasporti, più 6,1%, dove l'aumento più marcato riguarda i prezzi del trasporto marittimo. Per abitazione, acqua, elettricità e combustibili, rialzo del 4,7%, per i prodotti alimentari del 3%. Si tratta del livello più alto dal marzo del 2009. Volano infatti i prezzi della frutta fresca sugli scaffali con un aumento del 14% rispetto allo scorso anno. Sempre a giugno sono Aosta con più 3,9%, Bari con più 3,5%, Milano con più 3,4%, 1,1% le città in cui i prezzi registrano gli aumenti più elevati rispetto allo stesso mese del 2010. Le variazioni più moderate riguardano invece Ancona, Palermo e Trento. Adriana Fracchia, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Le politiche di bilancio nell'area euro attraversano circostanze molto difficili e richiedono un'azione decisa. Questo quanto scrive la Banca Centrale Europea nel suo bollettino di fine luglio. E ora veniamo alle borse. Deborah Rosciani, come stanno andando? È una giornata piuttosto delicata, almeno ci sembra, ci sono tante notizie, tanti movimenti. Cominciamo intanto, direi, dal mercato obbligazionario, Alessandra, perché oggi c'è stata l'attesa asta di BTP a 5-15 anni, organizzata ovviamente dal Tesoro italiano, e sono andate entrambe bene perché la domanda dei titoli di Stato italiani è stata piuttosto sostenuta, ma il Tesoro italiano ha dovuto riconoscere ancora una volta rendimenti in crescita. Per il BTP a 15 anni il tasso è stato del 5,90%, il massimo dal lancio dell'euro, mentre il titolo a 5 anni è stato venduto al 4,93%, al massimo dal giugno del 2008. È tornato subito dopo l'esito di quest'asta ad allargarsi lo spread, il differenziale di rendimento fra il BTP, fra il titolo decennale italiano e il benchmark di riferimento, che è quello tedesco, oltre i 300 punti base, quindi un'altra volta al di sopra di questa soglia psicologicamente molto importante, e ha invertito la rotta anche Piazza Affari, il mercato azionario. Il FTSE MIB era partito stamattina con un ribasso di un punto, ha recuperato tutto, ha guadagnato mezzo punto percentuale, adesso c'è dell'1,35%. Altri fatti che stanno movimentando la seduta: l'oro ha toccato un nuovo record a $1,594 l'oncia, continua a correre ancora il franco svizzero, toccando record su record sia nei confronti dell'euro che nei confronti del dollaro. L'euro sul dollaro è a 1,4168, quindi l'euro è tornato a scendere sul biglietto verde, quindi, Alessandro, una giornata piuttosto movimentata, è tutto. Grazie Deborah Rosciani. E noi veniamo ad un'ultima ora che arriva dal Parlamento, perché la Camera ha approvato proprio pochi minuti fa il decreto legge in materia di immigrazione relativo ai rimpatri dei clandestini. Il testo è passato con 273 sì, 257 voti contrari, ora deve passare al Senato. Il CNEL ha presentato il rapporto sul mercato del lavoro. Andrea Viali ha intervistato Antonio Marzano, presidente del CNEL. Cosa evidenzia questo vostro rapporto? Evidenza alcune cose positive, cioè le politiche attuate, ma anche la predisposizione favorevole delle parti sociali, cioè delle imprese e dei sindacati, ha evitato una caduta maggiore dell'occupazione, che si sarebbe potuta essere. Per esempio, si sono ridotte le ore di lavoro piuttosto che ridurre il numero dei posti di lavoro nelle aziende. Si è accresciuta la copertura degli ammortizzatori sociali, la cassa integrazione, eccetera. Quindi a questo punto, in termini di occupazione, di perdita di posti di lavoro, l'Italia ha avuto risultati migliori di molti altri paesi europei, anche se la Germania ha fatto ancora meglio, ovviamente. Ora, a questo punto però, il problema è se l'Italia non torna a crescere. Se cresce a un tasso di sviluppo che oggi come oggi, per quest'anno, è previsto uno 0,7%, come si fa a creare posti di lavoro? E contemporaneamente a far aumentare anche la produttività del lavoro. E noi abbiamo bisogno di tutte e due le cose: più posti di lavoro, soprattutto per i giovani che sono stati più colpiti dalla crisi, ma anche più produttività, perché abbiamo bisogno di essere competitivi verso l'estero. Non abbiamo materie prime, le dobbiamo acquistare all'estero, e per fare questo bisogna essere competitivi. Quindi il messaggio è tornare allo sviluppo. L'attentato di ieri a Mumbai, sono 18 i morti accertati, oltre 130 i feriti, alcuni in gravi condizioni, ed è ancora aperta la caccia ai responsabili. Le autorità indiane avevano promesso informazioni continue e stanno mantenendo la parola. Il governatore dello stato del Maharashtra, quello di cui è capitale Mumbai, riferisce che le telecamere a circuito chiuso dei mercati colpiti dagli attentati stanno fornendo importanti informazioni. Mentre in una conferenza stampa a Delhi, il ministro degli interni Chidambaram ha confermato che per gli ordigni è stato usato nitrato di ammonio e sostenuto che sarebbero stati azionati da un timer. Anche se all'esame della polizia ci sarebbe il corpo di una delle vittime sul quale è stato trovato un circuito elettrico. Su un punto, però, nessuno dà informazioni. Quello della responsabilità dell'attentato. In mancanza di rivendicazioni, il pensiero è subito andato a un qualche gruppo fondamentalista islamico che magari volesse sabotare la ripresa dei colloqui con il Pakistan, interrotti in seguito al sanguinario attentato di Mumbai del 2008, che fu attribuito al gruppo separatista pakistano Lashkar-e-Taiba. Sospettiamo di tutti, ha invece tagliato corto il ministro Chidambaram. Sa di governare un paese in cui 150 milioni di cittadini sono musulmani e senza prove la prudenza è d'obbligo. Laura Bettini, Radio 24 e Sole 24 Ore. Aggiornamenti dal Senato, dove sta parlando il ministro dell'economia Giulio Tremonti sulla manovra. Poco fa ha detto: senza il pareggio il mostro del debito che viene dal passato divorerebbe il nostro futuro. Naturalmente nel prossimo GR vi diremo quanto altro ha detto il ministro appunto nell'aula di Palazzo Madama. Inchiesta P4, il relatore Francesco Paolo Sisto ha ritirato la sua proposta di votare contro la richiesta di autorizzazione all'arresto trasmessa dal GIP di Napoli nei confronti di Alfonso Papa. La giunta per le autorizzazioni a procedere si è aggiornata per domani alle 12. Maxi operazione contro l'andrangheta e il narcotraffico internazionale fra Italia, Stati Uniti, Spagna e Olanda. Decine di persone sono state arrestate dai carabinieri. Daniele Biacchessi ha intervistato il procuratore capo di Reggio Calabria, Pignatone. Questa è un'operazione molto particolare e molto interessante anche rispetto ad altre avvenute in passato. A parte le decine di arresti che stamattina hanno fatto i carabinieri, e a parte il sequestro di 500 kg di droga, qui di cocaina meglio, nel porto di Gioia Tauro nell'autunno del 2009, di altre centinaia di chili in vari porti sparsi per il mondo man mano che le indagini andavano avanti, i punti fondamentali sono due: uno, la conferma del ruolo dell'andrangheta nel narcotraffico mondiale. Dall'altro lato, direi la cosa ancora più interessante, per cui questa operazione viene chiamata Crimine 3, è che costituisce uno degli sviluppi dell'operazione Crimine, che lei ricorderà, che ha portato esattamente un anno fa, il 13 luglio del 2010, a 300 arresti fra Reggio Calabria e la Lombardia, perché si è rivelato che questa intesa fra le famiglie, fra le cosche calabresi, con una reagia unitaria che in questo caso spettava principalmente alla famiglia Pesce, Gemma sul porto di Gioia Tauro, e ancora una volta un'associazione unitaria che cura in grande stile il narcotraffico con l'importazione dei grandi quantitativi dal Sud America e poi lo spaccio in grandi quantità in tutta Europa. In chiusura il ciclismo con il Tour de France, oggi 12ª tappa con il passaggio sul Tourmalet, l'arrivo in quota all'Usardiden. Ce ne parla Pier Augusto Stagi. Buongiorno Pier Augusto. E buongiorno, festa della Bastiglia, festa della Francia doppiamente, perché abbiamo in maglia gialla, come sappiamo da due giorni, Thomas Vauclair, uno dei grandi beniamini francesi. Ma oggi finalmente potremo capire che Tour de France ci aspetta da qua alla fine, se Cadel Evans sarà l'uomo da battere, se Contador ha la forza di recuperare il tempo perso, se i fratellini terribili lussemburghesi Andy e Frank Schleck saranno gli antagonisti dello spagnolo e dello spagnolo, ma soprattutto se i nostri Ivan Bass e Damiano Cunego potranno lottare fino alla fine con l'Olimpo e del ciclismo mondiale. Al momento i corridori hanno coperto 57 chilometri, mancano 153 chilometri all'Usardiden, sono 6 gli uomini in fuga: Perez, Gutierrez, Cadri, Thomas, Roy e Mangel. Hanno un vantaggio di 6 minuti e 0,3 sul gruppo maglia gialla. È tutto da Usardiden, la linea allo studio. Grazie Pier Augusto Stagi, e si chiude qui questa edizione curata da Daniele Biacchessi, condotta da Alessandra Tedesco. Grazie in regia Mauro De Angeli. Il GR torna alle 14. GR 24, il Sole 24 Ore. Direttore Fabio Tamburini.